E dunque, come promesso, ci mettiamo in contatto con una compagna di Bologna che ci racconta il presidio di domenica. Ciao, ci senti? Ciao. Dunque. Ciao a tutti. Domenica era la seconda giornata poi effettivamente di due iniziative che abbiamo fatto, perché volevamo sì portare solidarietà alle donne curde, alla rivoluzione che stanno portando avanti da anni, però anche volevamo un momento di approfondimento, perché appunto è di diffusione un po' delle loro pratiche che le hanno portate a questa situazione rivoluzionaria, no? Di liberazione delle donne. E quindi c'è stato un incontro con Nurzel Kirsic, di cui avete appena letto questo testo, che più o meno dice tutto quello che ha detto anche a noi. Ci siamo soffermate con tante domande, soprattutto su come hanno fatto a far riconoscere prima di tutto l'autodeterminazione dei loro gruppi femministi, e quanto è stata importante anche la figura di Sakineh nel loro movimento e nell'evoluzione del loro movimento. Se posso dire, sono molto toccata dalla strategia del separatismo, eh? Sì, infatti. Perché torna sempre, eh? Torna sempre, infatti proprio questo volevo dire, no? Che loro dopo tanti anni di separatismo poi sono state riconosciute anche dalla società curda, insomma rivoluzionaria, almeno quella. E quindi con questo confederalismo democratico, la questione dell'autodifesa, hanno veramente spostato dei concetti che altre rivoluzioni non sono riuscite a fare, insomma, e mettendo in primo piano la liberazione delle donne, hanno veramente cambiato molto anche all'interno del loro movimento, e quindi del movimento misto, dico. Però dopo anni di separatismo, quindi le domande sono state appunto su questo, sul fatto, sull'autodifesa anche, alla fine lei ha detto l'autodifesa, noi non c'è una differenza tra la vostra autodifesa, perché abbiamo parlato anche, no, di come portiamo avanti i gruppi di autodifesa qua in Italia, mettendo appunto, cercando delle strategie per insieme, no, per rispondere alla violenza maschile attraverso la solidarietà femminile. E lei dice, ma noi infatti per noi l'autodifesa non è solo combattere con le armi, ma è quella che portiamo avanti in tutti gli ambiti della nostra vita, dalla famiglia prima di tutto, al lavoro, ai rapporti con gli altri militanti, eccetera eccetera, insomma tutto, e la violenza sessuale e così. Quindi è la cosa, l'altra cosa che ora noi non abbiamo ancora fatto una valutazione collettiva, quindi io parlo un po' così a braccio delle cose che mi hanno colpito di più, no? L'altra cosa che ci diceva, che lei ha conosciuto Sakineh quando aveva 16-17 anni, non gli è stata presentata come Sakineh, perché già allora Sakineh era una leggenda negli anni 90, nel 98. E le chiede appunto, ma cosa vuoi fare, cioè tu cosa vorresti fare? Ah, io vorrei diventare dottore. Ma perché vorresti diventare dottore? Perché vorrei salvare la gente. E tu pensi di essere salvata? Questa è la domanda di Sakineh. E quindi già questo, no? Lei diceva, il modo in cui si poneva, in un modo non di superiorità, ma si metteva sullo stesso livello delle altre donne, ragazze, nonostante appunto già negli anni 90, dopo questi 10 anni di torture, fosse diventata una leggenda perché aveva resistito alla tortura, però aveva una capacità di comunicare che poi ha portato appunto alle accademie di autoformazione in cui tutte sono allo stesso livello, appunto si autoformano, non c'è un insegnante o un'alunna, e quindi insomma sono stati dei discorsi che secondo me potrebbero farci crescere se li vogliamo ascoltare, li vogliamo un attimo, no? Assimilare questo percorso che hanno fatto le curde per tanti anni. E quindi questo è per quanto riguarda la serata del sabato in cui appunto abbiamo presentato il libro di Sara, e domenica. Poi nella giornata di domenica c'erano avanzati pochi libri, però li abbiamo venduti tutti. Abbiamo fatto il primo benefit, lo devo dire alla radio in diretta, perché è stato il primo che veramente è stato sbancato. C'è stata una grande solidarietà da parte di tutte le donne che passavano dalla piazza anche ieri. Cioè, abbiamo venduto libri per 800 euro, magliette, tra magliette, poi quando abbiamo cominciato a fare il live delle magliette sono arrivate tutte quelle che forse non avevano comprato i libri, ma comunque alla fine abbiamo tirato su anche 180 euro tra magliette e buffet. E dunque il presidio? Nel presidio in Piazza Maggiore. Sì. Ieri, la domenica a Bologna, e il giorno prima già avevamo iniziato a tirare su un sacco di soldi, insomma in totale abbiamo tirato su un sacco di soldi per i nostri per le nostre esperienze di benefit. Eravamo tutte molto stupite, ecco, dalla risposta delle donne c'è stata una grande solidarietà. Poi c'è stato un microfono aperto dove qualunque donna, ragazza poteva parlare, esprimere le proprie opinioni, sia sulle curde o leggendo interventi direttamente delle curde, oppure parlando direttamente della nostra situazione in Italia. Molti hanno parlato della situazione del femminicidio, del lavoro, che siamo come schiave, ormai siamo a un livello di schiavitù praticamente, e quindi no, è stato un bello scambio. E anche con questa, sempre, no, la questione della solidarietà unisce anche tutte, riesce a unire tutte le differenze che ci possono essere tra noi. È stato organizzato da un coordinamento di vari gruppi femministi e singole e lesbiche, e con posizioni anche differenti rispetto alla lotta che hanno portato avanti le curde, però anche le donne in nero, per esempio, che sono pacifiste, hanno partecipato, hanno dato la loro solidarietà con i loro contenuti, insomma è tutte... Anche questo è una lezione comunque del testo, per esempio, che abbiamo sentito adesso, ma una lezione di, no, di trovare un modo di, tra le differenze, le divergenze, di confrontarci e di andare contro comunque un nemico comune, il patriarcato, gli uomini che sono uomini dentro. E sì, infatti proprio questo. E poi no, è bello anche vedere proprio tutte, cioè che non possiamo essere, per alcune cose possiamo veramente unirci nonostante le nostre differenze, se vogliamo, e quindi questa è stata una cosa importante. Questo è solo l'inizio, questo è quello che volevo dire, perché già il 26 marzo abbiamo invitato due compagne che sono state il 25 novembre in Rojava, appunto in una delegazione di donne, hanno incontrato tutte le donne di cui avete parlato voi abbondantemente, mandando anche i podcast di tutte le interviste fatte, gli scambi avuti con le donne di diversi ambiti. Sì, sì, sì. E dunque sì, dai l'appuntamento, il 26 marzo. L'appuntamento è il 26 marzo, dovrebbe essere sempre ad Armonie, ma ancora dobbiamo definire tutto perché siamo state così prese dalla preparazione del 7 e dell'8 che vi sappiamo dire dopo martedì prossimo, cerchiamo di dirvelo, così per lanciare. Ci dovremmo trovare proprio martedì sera, a dire la verità, in riunione per prepararlo. Va bene, guarda, noi cioè, continuiamo comunque a seguire tutte queste iniziative e tutta questa solidarietà. Non lo so chi è solidale, se sono le curde solidarie di noi o infatti. Noi di lei, di loro. Comunque c'è un messaggio che infatti questa delegazione internazionale di donne che sono tornate del Rojava era messaggio delle donne curde verso di noi: se avete bisogno di noi possiamo fare qualcosa per noi, per voi. Infatti si è anche visto a Roma che cioè, senza di loro, senza le compagne curde, chissà come sarebbe andato questo corteo. Ci ha spinto anche a fare riunione tra diverse realtà e alla fine è stata una bella giornata. Infatti sì, dunque anche continua. Per noi è la stessa cosa. La cosa di cui siamo profondamente consapevoli è che c'è molto da imparare, sì. dalle loro pratiche. Poi è chiaro che la solidarietà rispetto a certe cose, per esempio il comitato che adesso si sta formando, ci ha detto Nurzel, per liberare le 7000 donne che sono schiave del sesso, che sono state rese schiave del sesso da Daesh, dal Stato Islamico. Questo di sicuro è anche chiedere verità e giustizia per i femminicidi politici di Sakineh. Questo penso che lo possiamo fare anche da qua, no? Può essere quello che possiamo dare noi in cambio a tutto quello invece che ci possono insegnare loro sulle relazioni tra di noi, la consapevolezza di quanto la violenza può essere e il patriarcato può essere interno proprio, è assimilato dalle donne stesse, che è una lotta continua, come dice Sakineh nel suo libro. Insomma, tutta la mia vita è stata una lotta, ognuna di noi dovrebbe un attimo rifletterci sul fatto che se tutte ci fossimo messe a lottare come Sakineh, a quest'ora il mondo sarebbe stato molto diverso, insomma. Allora sì, concludiamo qua, sì. Se ti va, veramente ti ringrazio, è stato una bel resoconto. Ci sentiremo prossimamente per le prossime iniziative. Benissimo, benissimo, rimaniamo sempre in contatto. Sì, grazie mille, ciao. A presto, ciao.